Ciao a tutti gli ascoltatori, eccoci qui con Lorenzo Balbi e in occasione della presentazione della conferenza stampa del programma espositivo di Mambo 2020 e vediamo quali sono gli appuntamenti più interessanti a partire da quelli appunto già aperti e già accessibili al pubblico. Sì, grazie. La programmazione 2020, come di consuetudine, è una programmazione che vuole quanto più aprire gli orizzonti del museo, avvicinare i pubblici più diversi. Quindi abbiamo programmazioni diverse per ogni area che corrisponde un po' alla nostra istituzione. Per la Sala delle Ciminiere, due grandi mostre di stampo un po' internazionale. La prima, Again and Again and Again, inaugurata in questi giorni con le opere di sette artisti internazionali sul tema della ciclicità del tempo. Portano in Italia per la prima volta i loro lavori e poi di nuovo un focus su un artista italiano. Uno degli obiettivi è anche quello di centrare l'attenzione sull'arte italiana con la prima personale in un'istituzione italiana dell'artista Aldo Giannotti. Al solito la Project Room è il luogo in cui si indagano di più i contesti locali, i contesti territoriali. Ci saranno tre mostre in questa direzione: una su una rivista, la Stanza Rossa, una su un centro di produzione video, lo Studio 20 Voglio, e una sui progetti non realizzati a Bologna tra il 1975, anno di fondazione della Galleria d'Arte Moderna, e oggi. Villa delle Rose ha un taglio più internazionale con cooperazioni con importanti musei. In questi giorni, come dicevi tu, ha inaugurato la mostra di Antoni Muntadas, la sua prima mostra in Italia, e poi ci sarà, come sempre, la residenza per artisti Rose, quest'anno animata dall'artista inglese Ellen Dolling. Tre eventi speciali scandiranno un po' l'annata del museo. Il primo, Romeo Castellucci, con la prima recita questa sera, La Vita Nuova, lo spettacolo che è la sua prima nazionale negli spazi di Dambo. Un progetto che Nino Migliori, grande maestro, importantissimo artista bolognese, dedica alla strage di Ustica, con 81 fotografie inedite del relitto del 19 dell'Itavia, che saranno allestite in una grande installazione immersiva nell'ex chiesa di San Mattia. E il progetto più importante e ambizioso di quest'anno a livello istituzionale, che è la grande mostra di Giorgio Morandi a Pechino, al CAFA Museum, quella che sarà una delle più grandi mostre di Morandi mai realizzate nella storia. Durante la conferenza stampa è emersa la novità importante della mostra di Morandi a Pechino rispetto ad altre mostre precedenti dello stesso artista. Sì, la grande novità è che il Museo Morandi si pone come curatore di un progetto specifico. Per ora il museo aveva focalizzato la sua attenzione al contesto bolognese, quindi portando avanti una ricerca e la valorizzazione di quest'artista dentro le mura, e comunque soprattutto badando al restauro, alla conservazione e valorizzazione della collezione, e prestando le proprie opere per mostra all'estero. Abbiamo pensato che l'idea che vogliamo dare del museo è di centro propositivo, che è centro di curatela, sviluppo di nuove progettualità, e quindi abbiamo accettato l'invito di questo museo cinese, con però l'obbligo di essere noi in prima fila a progettare, sviluppare e realizzare concretamente questa mostra molto ambiziosa. Per finire, prima di salutare, vogliamo ricordare qual è l'importante novità anche dal punto di vista della collaborazione tra vari linguaggi artistici, ossia tra l'arte figurativa e il cinema. Come annunciato a fine conferenza, infatti ci sarà anche un'importante rassegna cinematografica che vede sempre coinvolto il Mambo assieme ad altre istituzioni artistiche bolognesi. Sì, come ho già brevemente tratteggiato, una mostra specifica della Project Room va incontro al linguaggio filmico e alle contaminazioni tra arte visiva e cinema, con questa produzione in Super 8, soprattutto legata allo studio Bentivoglio, questa collaborazione con On Movies. Quindi ci saranno ovviamente progetti che stanno in bilico tra arte e cinema, che è quello che ci interessa di più, in collaborazione con anche la Fondazione Cineteca di Bologna. E fra pochissimo, in occasione della mostra dei Foscherari, verrà presto varato una rassegna video di anche indagine e ampliamento dei contenuti di questa mostra, soprattutto con video di Mario Schifano direttamente proiettati in 16 mm ed altri avvenimenti che presto comunicheremo legati al cinema sperimentale avanguardista. Perfetto, ringraziamo ancora Lorenzo Balbi per l'intervista e ci risentiamo. Grazie a voi.